GR24, il sole 24 ore. I minatori tornano in superficie, sospesa la protesta nel sottosuolo alla Carbon Sulcis, resta la mobilitazione. Camusso, detassare le tredicesime per rilanciare i consumi, occupazione ancora in calo nelle grandi imprese mentre arrivano i rincari d'autunno. 200.000 per il saluto a Carlo Maria Martini, oggi funerali a Milano. 30 anni fa a Palermo moriva il generale Dalla Chiesa, Napolitano, uniti contro la mafia. Buongiorno dalla redazione, una buona giornata da Anna Migliorati. Si sono riuniti questa mattina in assemblea i lavoratori della Carbon Sulcis e la decisione più attesa è arrivata, i minatori torneranno in superficie. Allora al microfono di Maria Piera Ceci, il portavoce Sandro Mereu. L'assemblea ha deciso di togliere l'occupazione, però rimane la mobilitazione. Noi conferiamo le ceneri della centrale Enel di Portovesme e abbiamo deciso di lasciare chiuso il cancello della discarica. Perché questa decisione? Perché riteniamo che sia ancora importante nei confronti della regione Sardegna, perché c'è da rivedere un nuovo contratto con Enel e abbiamo necessità che la miniera venga fornita di altri investimenti, se si vuole parlare di futuro, e abbiamo necessità di un incontro urgente con la regione Sardegna. Quindi l'incontro che c'è stato venerdì scorso non vi ha lasciato soddisfatti e rassicurati? No, perché a noi ci hanno presentato una scatola e, se mi permette, noi vogliamo vedere che cosa c'è dentro la scatola. Svolta dunque per la Carbon Sulcis, comunque sentivamo i minatori torneranno in superficie, ma restano invece i numeri a tracciare un quadro preoccupante sul fronte occupazione e una proposta al governo, dopo quanto anticipato da Confindustria, la lancia anche il segretario della CGIL Susanna Camusso, Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Detassare le prossime tredicesime di lavoratori e pensionati utilizzando le risorse recuperate dalla lotta all'evasione fiscale. Questa è la proposta del segretario generale della CGIL Susanna Camusso, che in un'intervista a Repubblica di fatto boccia il governo Monti sul tema del lavoro. Per Camusso non va bene tagliare il cuneo fiscale a solo beneficio delle imprese, ma serve un segnale di discontinuità per dare un po' di soldi ai lavoratori. Di qui l'idea della leader CGIL di recuperare soldi dalla lotta all'evasione fiscale o nelle transazioni finanziarie. Dati negativi intanto per l'occupazione nelle grandi imprese, ovvero quelle con almeno 500 dipendenti. A giugno, secondo l'Istat, si segnala una nuova contrazione, meno 0,6% su base mensile al netto della cassa integrazione. Situazione economica generale non positiva che si riflette sui consumi. Secondo una previsione della Confcommercio, la flessione pro capite potrebbe arrivare quest'anno al 3,3%, con una ricaduta sulle imprese del settore, sarebbero 150.000 quelle a rischio chiusura. E da Roma è tutto. Grazie. E mentre, come sentivamo, arriva un calo ulteriore dei consumi, arrivano anche i rincari d'autunno. L'aumento di tariffe, imposte e carburanti costerà da 200 a 450 euro per famiglia tra settembre e dicembre. La stangata d'autunno, calcolata dal Sole 24 Ore del lunedì, oggi in edicola, è il frutto degli ultimi rincari dell'energia e delle manovre finanziarie dei mesi passati, che fanno sentire in questo periodo i propri effetti. A partire dal conguaglio dell'IMU, che in quasi tutte le città si annuncia più caro del primo acconto di giugno. L'elaborazione su tre profili di famiglie, condotte con l'aiuto di REF Ricerche e Union Camere Indis, mostrano un aumento nell'ordine del 20% della spesa annua complessiva prevista per il 2012 rispetto ai 12 mesi precedenti. Ma al di là della variabile tariffaria e fiscale, l'incognita più grande per i prossimi mesi è il costo della vita, con i prezzi al consumo sotto la pressione del petrolio e delle imposte indirette. Giovanni Parente, Radio 24, il Sole 24 Ore. C'è una bella notizia, ve la diamo subito, l'hanno appena battuta le agenzie, arriva da Londra perché Oscar De Pellegrini ha vinto la medaglia d'oro nel tiro con l'arco alle Paralimpiadi, il portabandiera azzurro ha sconfitto in finale il malesiano Sanawi 6-5. Ma noi torniamo invece ancora all'economia, perché in questo quadro si apre una settimana importante anche in Europa. Si terrà il 22-23 novembre il vertice straordinario dedicato al bilancio 2014-2020, è stato confermato questa mattina, oggi invece sono attese le parole di Mario Draghi. L'audizione del presidente della BCE Mario Draghi, atteso questo pomeriggio all'Europarlamento, sarà a porte chiuse. La richiesta agli eurodeputati è giunta direttamente da Francoforte, che vuole evitare la diffusione di ogni tipo di informazione prima della cruciale riunione del board di giovedì prossimo, dove saranno definiti i dettagli dell'intervento dell'Eurotower a sostegno dei paesi in difficoltà. Il presidente Barroso, che venerdì ha inaugurato alla stazione UE la nuova linea metropolitana di Sofia, parla dall'AIA di giornate decisive in cui la crisi ha mostrato i limiti dell'azione individuale degli stati nazionali. Intanto all'orizzonte si avvicina a grandi passi il voto olandese del 12 settembre, appuntamento incerto che vede crescere la popolarità del leader socialista Emil Roemer, l'ex insegnante di scuola elementare, convinto che avere ancora più Europa non è la soluzione alla crisi dell'Europa. I socialisti, ha detto chiaro il leader olandese, sono contro gli obiettivi di austerità della Commissione, secondo i quali entro il prossimo anno i Paesi Bassi dovrebbero ridurre il loro deficit di bilancio al di sotto del 3% del PIL, il massimo previsto dal Trattato di Maastricht. E se la Commissione dovesse minacciare sanzioni contro l'Olanda? Roemer ha già risposto pubblicamente: dovranno passare sul mio cadavere. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore. E allora sentiamo anche come vanno le borse europee, Deborah Rosciani. Borse europee ancora in rialzo nella prima seduta della settimana, in attesa giovedì della riunione della Banca Centrale Europea, che dovrebbe fornire nuove indicazioni sul piano europeo per combattere la crisi del debito. Segnali positivi sono arrivati anche venerdì dalla Federal Reserve americana, pronta a lanciare nuove misure di sostegno all'economia, mentre il rallentamento maggiore del previsto dell'economia cinese apre la porta ad interventi di politica monetaria. Andiamo a vedere le borse europee come si comportano. Parigi più 0,4, Francoforte più 0,3, Londra più 0,63%, Milano, la migliore d'Europa, segna più 0,76%. Euro su dollaro a 1,2571, spread fra BTP e Bund a 447 punti base. Ricordiamo che oggi è chiuso il mercato americano in occasione del Labor Day. È tutto. Grazie a Milano. Ora alle 16 ci saranno i funerali del cardinale Carlo Maria Martini. Per tutto il fine settimana è stato un afflusso ininterrotto per un ultimo saluto della città. Katia Caramelli. Sì, buongiorno. Le porte del Duomo riapriranno esattamente alle 14.30 per accogliere i tanti che prenderanno parte alla celebrazione. Per chi non dovesse trovare posto all'interno della cattedrale, all'esterno sono già stati allestiti due maxi schermi e numerose saranno anche le dirette TV e web. Al termine della messa officiata dall'arcivescovo Angelo Scola, Martini sarà poi seppellito in forma privata nel Duomo sotto l'altare di San Carlo. Almeno in 200.000, ma forse di più, dicono qui in Curia, hanno reso omaggio da sabato al feretro del cardinale, anziani, giovani, bambini, esponenti di altre confessioni religiose. Poco fa abbiamo assistito alla preghiera tenuta dalla comunità ebraica in arcivescovado. In tanti hanno anche lasciato un messaggio nel libro delle testimonianze per lasciare un ultimo saluto a Martini, dirgli grazie per qualcosa, ma anche chiedere una speciale protezione per sé e per la propria famiglia. Non ci sarà ai funerali il Papa, il suo rappresentante sarà il cardinale Angelo Comastri, vicario per la Città del Vaticano. Tra le autorità presenti il premier Mario Monti, che ieri ha già reso omaggio alla Camera Ardente. E qui da Milano è tutto. E parleremo però ancora del saluto, dell'affetto di Milano per Carlo Maria Martini. Lo faremo alle 13.45 con la nuova veste di Italia in Controluce, Daniele Biacchessi. Sì, alle 13.30 Italia in Controluce cambia pelle, non più i reportage scritti in punta di penna, ma andremo nel fondo dell'approfondimento del giornale radio. Prenderemo il fatto del giorno e lo svilupperemo con ospiti in diretta con la nostra redazione. Oggi naturalmente ci collegheremo dalle 13.30 con Katia Caramelli per circa 11 minuti. Avremo con noi Anna Marino, che ha lavorato tutta questa mattina sul pensiero di Carlo Maria Martini, sentiremo la sua voce, poi Don Antonio Sciottino, direttore di Famiglia Cristiana, e il giornalista Marco Garzonio, che è stato autore di parecchi libri su Martini. Alle 13.30, naturalmente, più tardi con Daniele Biacchessi. Oggi a Milano, ai funerali di Carlo Maria Martini, ci sarà anche il premier Mario Monti, poi tornerà a Roma, dove sono molti i capitoli aperti sul fronte politico. Oltre all'incontro mercoledì con l'Associazione degli Imprenditori per parlare, come sentivamo, di occupazione e crescita, sul tavolo c'è anche la questione giustizia. Dalle norme anticorruzione a nuove misure per affrontare l'emergenza carceri, passando per la responsabilità civile dei magistrati e il processo civile telematico. Questi primi punti nell'agenda di governo in tema di giustizia, una roadmap che il premier Monti ha definito con il guardasigilli Severino e che verrà sottoposta al Parlamento nelle prossime settimane. In cima alle priorità la legge anticorruzione richiesta anche dall'Europa. Il governo punta a rafforzare gli strumenti contro questa piaga, anche introducendo nuove ipotesi di reato quali il traffico di influenze, sulla quale il PDL resta però contrario. Niente forzature né strappi invece sulle intercettazioni, sulle quali il PDL vorrebbe accelerare. Il tema è delicato, il premier Monti esclude iniziative autonome del governo considerate inopportune. Niente disegni di legge dunque, né tantomeno un decreto legge. Insomma, nessuna sponda ai tentativi di qualche parte politica di strumentalizzare la vicenda del Quirinale indirettamente coinvolto nelle indagini sulla trattativa Stato-mafia. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E a chiudere la pagina politica, un'altra novità del palinsesto d'autunno di Radio 24, una nuova rubrica che parte oggi, firmata da Stefano Folli. Il punto di Stefano Folli. Beppe Grillo dovrà decidere cosa vuole essere nel dibattito pubblico: incarnare il rifiuto della politica tradizionale, dare voce alla diffidenza verso i partiti, rappresentarsi solo contro tutti può avere un senso, e certo è stato un errore di Bersani quello di dargli del fascista. Ma detto questo, c'è da domandarsi: davvero Grillo pensa di riempire i prossimi mesi di qui alle elezioni facendo del vittimismo, lanciando contumelie, accusando gli oscuri complotti contro la sua persona orditi dai politici e dai mezzi di informazione? L'esperienza insegna che l'atteggiamento vittimistico non porta mai troppo lontano. È un'arma narcisistica che spesso nasconde la mancanza di idee. Grillo ha da tempo abbandonato quell'efficace sarcasmo contro gli avversari che all'inizio era stato il suo asso nella manica. È diventato livoroso, violento nei toni, sempre più autoreferenziale. Ed è tutto da dimostrare che la rissa permanente gli convenga. Alla lunga c'è invece la possibilità che stanchi gli elettori. Anche il populismo, quando pretende di essere ambizioso, ha i suoi tempi, i suoi ritmi, i suoi temi. Grillo, che è un attore, dovrebbe saperlo, viceversa sembra essersene dimenticato. Riprendiamo invece da un ricordo: 30 anni fa, la morte del generale Alberto Dalla Chiesa. Diceva Carlo Alberto Dalla Chiesa che la presenza dello Stato deve essere visibile, e a 30 anni dal suo omicidio il testamento del generale, che dopo i terroristi sfidò i boss a viso aperto, continua ad essere la regola aurea contro l'arroganza di tutti i clan, quelli che allora trasformarono Palermo nella nostra Beirut, quelli che oggi continuano ad insidiare dalla Calabria o da Milano il cuore democratico dell'Italia. Era il 3 settembre dell'82, quando una pioggia di colpi in una calda serata siciliana uccise il generale, mandato d'urgenza nella città che bruciava insieme alla sua giovane moglie e alla gente di scorta. Qui è morta la speranza dei siciliani onesti, scrisse allora su un cartello un anonimo cittadino che doveva anche aver letto quel grido di denuncia che solo pochi giorni prima il generale aveva affidato a Giorgio Bocca. Dimostrare che non era stato aiutato, che era stato lasciato solo, un modo per dire: o mi date questo potere finalmente o se no abbandono la lotta. Spedito dopo il delitto di Pio La Torre nella trincea di Palermo, con 100 morti in 8 mesi quell'anno, Carlo Alberto Dalla Chiesa vedeva nell'incertezza di Roma sui suoi poteri la sua solitudine e, come lui stesso sapeva, anche la sua condanna. Ma ad accompagnarlo c'era il suo altissimo senso dello Stato. Consapevolezza che tutto viene proiettato nella difesa dello Stato, delle istituzioni e di quella stessa collettività da cui lui proviene. E 30 anni dopo, mentre ancora troppi misteri avvolgono i delitti di tanti servitori dello Stato, queste restano parole di speranza, sopravvissute anche al sangue di chi li pronunciava. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. E oggi, tra i molti ricordi, anche quello del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Un minuto di silenzio nella cerimonia in via Carini, poi una messa nella caserma dei Carabinieri che porta il suo nome, Palermo e le istituzioni hanno ricordato così stamattina il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso 30 anni fa da Cosa Nostra assieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all'agente di scorta Domenico Russo. Fu un eccezionale servitore dello Stato, la sua uccisione provocò un unanime moto di indignazione, il suo ricordo ci unisca nella lotta contro la mafia, ha scritto il presidente della Repubblica Napolitano in un messaggio inviato al prefetto di Palermo Postiglione. L'omicidio Dalla Chiesa sia un monito per tutti noi, ha aggiunto il ministro dell'Interno Cancellieri. Non è morto invano, dalla sua morte sono successi tanti fatti, si è fatta molta strada, molta altra si deve fare, quindi oggi noi dobbiamo soltanto impegnarci a lavorare seriamente per contrastare questo drammatico fenomeno, ma la sua morte deve essere un monito per tutti noi. Quello di Dalla Chiesa non fu soltanto un delitto di mafia. A 30 anni di distanza il complesso movente di quella strage è rimasto in parte oscurato da tanti misteri, ha ricordato invece il procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso, e a parlare apertamente di omicidio politico sono ancora una volta i figli del generale Nando e Rita. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Polemiche e discussione aperta per il concorso annunciato per la scuola, ma c'è anche un altro fronte per i tirocini dei professori. In lizza sono 47.000 candidati per 20.000 posti. Parte la fase 2 della selezione per i TFA, i tirocini formativi attivi che abilitano all'insegnamento i futuri docenti. 20.000 i posti in lizza per i 47.000 candidati promossi al test di luglio, organizzato a livello nazionale, che è stato al centro delle polemiche per il gran numero di domande formulate in modo errato dal Ministero dell'Istruzione. Se per alcune classi di concorso il numero di candidati supera di gran lunga quello dei posti, per altre, come lettere, matematica e filosofia, vale il contrario. In tutto resteranno scoperti almeno 4.000 tirocini, come dire un posto su 5. Il ruolino di marcia per i superstiti prevede ora una prova scritta, messa a punto da ciascuna università, per passare poi all'orale di ottobre e arrivare all'avvio dei tirocini per inizio novembre. Francesca Barbieri, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Crollo delle temperature e maltempo con precipitazioni abbondanti. Le prossime ore saranno le peggiori, almeno dicono i meteorologi, per questo avvio di settembre. Il brusco passaggio dall'estate all'autunno anticipato che ha portato la prima neve anche sulle Alpi proseguirà almeno fino a giovedì, quando è atteso il ritorno del caldo. Due scosse di terremoto si sono verificate a distanza di 8 ore nell'area del Pollino tra la Calabria e la Basilicata. Qui è in atto da diversi mesi ormai uno sciame sismico. Le due nuove scosse alle 22.30 ieri sera e poi alle 6 di questa mattina. Arresti da film, ma sentite, è stato tutt'altro che fiction. È stato arrestato dai carabinieri di Ragusa il presunto autore di attentati a colpi di Kalashnikov, entrato più volte in azione prima dell'estate sul set siciliano del commissario Montalbano. Il noto personaggio uscito dalla penna di Andrea Camilleri, legato ad una serie televisiva della Rai di grande successo. Tra gli obiettivi dello sparatore, il ristorante dietro la casa del protagonista e l'azienda di legnami nella vicina contrada di Santa Croce Camerina. L'uomo arrestato è un trentenne incensurato il cui movente sarebbe legato al gioco d'azzardo e alle scommesse online. Dopo mesi di indagini, la svolta che ha portato all'arresto del trentenne insospettabile tradito da una telecamera. Ora è indagato per porto e detenzione d'arma e munizioni da guerra e minacce aggravate. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Si è parlato molto del metodo stamina. Dopo il caso della bimba di Venezia, anche un giudice siciliano ha imposto di riprendere la cura su una piccola di 17 mesi. Allora Valentina Furlanetto un parere l'ha chiesto al farmacologo Silvio Garattini. Non c'è nessuna base scientifica per sostenere questo tipo di discorso. Non ci sono dati che sostengano la utilità di questi trattamenti nella atrofia muscolare spinale. La sperimentazione sarebbe legittima se ci fossero dietro delle informazioni attraverso studi sperimentali, attraverso esperimenti condotti in animali che hanno sintomatologie simili a questa, e nel caso in cui le cellule staminali dimostrassero un effetto positivo sarebbe giustificato fare una sperimentazione, però una sperimentazione richiede che ci sia un protocollo, richiede che questo protocollo sia validato e autorizzato prima di tutto dall'Istituto Superiore di Sanità, perché si tratta di somministrazione di cellule, poi dal comitato etico e poi naturalmente deve essere fatto in centri che abbiano la competenza per poter avere dei risultati attendibili e soprattutto essere in grado di controllare gli effetti collaterali, perché qui si sta facendo uno studio con la convinzione che faccia bene, però siccome non abbiamo dati, il fatto di non sapere se faccia bene per la stessa ragione ci permette di dire che non sappiamo se faccia male. Siamo alla pagina sportiva, è stato un fine settimana di calcio con qualche sorpresa, soprattutto per la Roma. Alla fine, anche se in testa ci sono Juventus, Lazio e Napoli, chi inventa magie in questa seconda di campionato è la Roma di Mastro Zeman, che illumina San Siro coi suoi fuochi d'artificio. 3 gol deliziosi, gli assist di Totti, allegria e applausi a scena aperta. E l'Inter, davanti a questa banda di ragazzini, si spegne come una vecchia batteria, troppo vulnerabile in difesa per resistere a questa girandola di invenzione. Colpisce nella Roma il perfetto mix di creatività e organizzazione. Una volta Zeman privilegiava lo schema, il progetto. Diciamolo, era un po' rigido e finiva per diventare vittima di se stesso. Ora il progetto è messo al servizio di Totti, che con le sue aperture taglia il campo come fosse una mela. Lui, Zeman, accusato di essere un romantico perdente, ora se la gode, pronto a graffiare ancora. Chi punta allo scudetto è avvisato, con questo gattone dovrà farci i conti. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E noi ci fermiamo qui perché nel nuovo palinsesto d'autunno di Radio 24 c'è uno spazio in più per GR Spettacoli. Naturalmente in primo piano la mostra del cinema di Venezia. Carmelo Lauricelli in regia. Da Anna Migliorati ancora una buona giornata. GR 24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.